sua mattonella. No, non essere geloso, siccome gli altri parlo a questo. Non essere furioso, siccome gli altri parlo e rap. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io parlo, il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella, no.